pensando a che cosa chiedere ancora. Cosa che ti ha colpito? Dell'Intercity, della costruzione così, e quando giocavano. Che quando giocavano con le bici, come facciamo adesso anche noi. E, io invece quando ascoltavo la cosa stava dicendo, mi immaginavo già il posto come era ai suoi tempi e quando giocava con le biciclette e il resto. Qui questo viale prima era alberato, forse voi non lo ricordate, e c'erano tre filari di alberi da questa parte e due dall'altra parte. Quindi potete notare che era proprio un giardino, proprio nel vero senso della parola. C'era meno cemento e più natura. Deve essere stato strano vedere cambiare il quartiere. E come vi sembra che sia cambiato? Forzemente poteva cambiare meglio? Questa è una bella domanda. Logicamente noi lo abbiamo visto cambiare. Prima di vivere l'esperienza, come dicevo prima, politica, e logicamente la parte del cittadino o dalla parte di ragazzo non ero tanto contento, perché è come dire che noi avevamo a disposizione degli spazi che ritenevamo nostri, perché era come un giardino, ripeto, e chiunque invadesse, anche se è un termine magari non bellissimo, questi spazi e non ci lasciasse più sfogarci con le bici, con i palloni, nei nostri giochi, logicamente per noi era visto come un nemico. Un nemico. Non voglio dire che quando sono arrivate le famose ruspe o le famosi camion che hanno cominciato a scavare sia in Piazza della Pace sia nella costruzione della nuova scuola, non capivamo questo. Quindi per noi è stato un cambiamento doloroso, perché abbiamo visto sempre i nostri spazi ridursi. Da quando però sono in politica, logicamente l'ho vissuta con altri occhi. Le città o il nostro rione ha bisogno, è un naturale evolversi, io direi, di creare cose nuove. So che ai bambini, come l'ho vista io con i miei occhi, questi cambiamenti, queste continue costruzioni che nascono, non fa felice. Perché, come dico sempre adesso, anche all'ultima giunta del Carnevale dei Bambini, che si sono presentati, sapete, al sindaco, chiedono sempre cose per i bambini, parchi, alberi nuovi, alberi belli, fiori, colori, che invece l'evoluzione porta asfalto, cemento, cose brutte. Si cerca sempre di trovare le vie di mezzo, bravissimo, quindi di riuscire a dare a questi bambini cose nuove. Certo, non saranno più quelle di una volta, questo te lo dico, quindi il cambiamento per me è stato un po' da un punto di vista doloroso, ma poi mi ha fatto capire doveroso.